Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, sono le 8 e 18 minuti, caro Oscar. Di questo bellissimo lunedì 26 di giugno. Perché bellissimo? È bellissimo, in fondo. Oggi almeno per me è bello perché prima non c'è il sole, quindi sì, la mia cupezza d'animo vede nell'atmosfera finalmente basta luce, cupi, bui. Basta luce. Come contribuente poi, questa domenica mi hanno randellato, capito? Quindi, ho importato. Siccome vedo che i giornali italiani inneggiano, allora sto zitto, sono cupo. Vuol dire che niente, c'è poco da fare. Ma hai portato 2 euro, 3 euro? 2 euro. Da lasciare. Veramente sono 270, altro che... Cioè hai portato un po' di soldi da lasciare giù? No, io non li ho portati, me li prendono. Per le banche. Me li prendono, direttamente me li prendono, questo è il punto. Per le banche. Me li prendono e devo dire, cari colleghi, avrete ragione voi, bisognerà inneggiare come fanno tutti i giornali dicendo che non c'erano alternative. Non c'erano alternative. Dove eravate, cari colleghi, nell'ultimo anno e mezzo? Non c'erano alternative? Ma è pazzesco. Non voglio fare l'eroe, evidentemente sono io che non sono tagliato per fare questo mestiere, quando dopo un anno e mezzo di palle raccontate ai regolatori che fino ad un mese fa dicevano che queste banche erano solvibili, erano tanto sane che si fondevano e andavano in borsa, che erano sistemiche e si scopre che non erano solvibili. Dopo un anno e mezzo stavano peggio di prima, come è inevitabile, perché se per un anno e mezzo le lasci morire lì vanno peggio, no? È ovvio, perché la gente se ne va. Dopodiché non erano sistemiche, le abbiamo dovute salvare con i soldi di tutti e tutti a dire beh, abbiamo fatto il meglio possibile. Insomma, Oscar Giannino, questo salvataggio delle banche venete, 5 miliardi e 2 con dandole a Intesa a 1 euro più 5 miliardi e 2. E fino al 17 poi. Fino con al 17 si potrebbe arrivare. Non piace perché, prima mi spiegava, insomma, si poteva far pagare gli obbligazionisti, quelli che per... No, si poteva innanzitutto investire. Per un anno e mezzo fare tutt'altro, caro... Tutt'altro, cara Banca d'Italia e cari governi. Tutt'altro, perché tutto quello che avete detto è stato smentito dai fatti. Però, quindi, innanzitutto si poteva evitare di arrivare a queste dimensioni, certo, del disastro. Dico, ma vista la situazione attuale, visto che non siamo bravi, si continuiamo ad andare gli obbligazionisti, quelli che hanno investito per quelli fare... che hanno investito, quelli a cui i regolatori hanno consentito alle banche di vendere titoli che in quella percentuale nessun altro paese avanzato del mondo hanno, si rifilano agli investitori retail. E se fossero stati famiglie, cioè investitori a cui non fosse stato detto i rischi a cui si esponevano, allora solo a quelli andavano rimborsati. Questa è la mia opinione. Però detto tutto questo, prendo atto. Come però insomma, qua c'è da dire che ovviamente non è che parliamo solo di questo, ci sono le amministrative, ci sono le amministrative, i sindaci, tra poco ne parleremo. Però caro Oscar, sai che molti dicono, anche quando leggevo la segna stampa, piantatela una volta che i soldi pubblici tornano al Veneto, visto che ci sono 11.000 dipendenti, ci sono famiglie che rischiano di essere sul lastrico, di quelli, eccetera. 4.000 vanno a casa comunque. E vabbè, insomma, non hanno salvato nessuno dei dipendenti. C'è una protesta di chi dice una volta che arrivano i soldi al Veneto, che contribuisce per larga parte. 600 agenzie le chiudono, non so se avete capito, state attenti a leggerli bene i pezzi, perché qui pensate che tutto resta come prima, non, ripeto, non è così. E poi questa povera prima banca italiana, a cui ci sono 37 deroghe alla legge nel decreto, perché in effetti Intesa San Paolo è la prima per dare a Intesa San Paolo la facoltà di scegliere quello che vuole, senza pagare niente, la copriamo di crediti fiscali, in più può restituire quello che non vuole anche dopo che ha scelto lei. È una roba mai vista. Comunque, insomma, con questo ci siamo giocati il santo del giorno? No, non è che i santi si volgono dall'altra parte, perché quando un paese, capisci, si consegna ai demoni e allora dici, vabbè, ma perché dovete invocare noi? Addirittura. Andate dalla controparte. Ma poi, scusa Oscar, ovviamente ci dicono anche, ma non pagano i responsabili di tutto questo? Chi? Zonin è nulla tenente, se ne sta in Sudafrica, vi risulta che hanno fatto qualcosa? Bene, allora comunque oggi santo giorno, io non voglio apprendere sarcastico, io prendo atto che sono minoritario e le mie opinioni in Italia valgono zero, tutto qui. 26 di giugno, oggi è San Vigilio Vescovo di Trento, che tra il 400 e il 405 più o meno è stato martirizzato a colpi di zoccolo. Infatti, di zoccolo di cosa? Zoccolo, nel senso, di cavallo? No, di zoccolo, proprio lo zoccolo dei contadini in Val di Non. In Val di Non non erano ancora cristianizzati, prima ne hanno fatti fuori tre dei suoi diaconi e secondo il martirologio ufficiale infatti il suo simbolo un po' è rappresentato sempre con questo zoccolo che è stato lo strumento del suo martirio ed è anche il giorno in cui si celebra il discusso fondatore di una delle più discusse istituzioni, è una parlatura personale della Chiesa Cattolica, perché oggi si celebra San José María Escrivá de Balaguer, che è il fondatore dell'Opus Dei. Spagnolo, sempre stato a Roma dal secondo dopoguerra fino a quando, 1975, è scomparso intorno all'Opus Dei, che ha come missione quella di dare coerenza nella vita al messaggio cristiano. Quindi coerenza nella vita significa nel proprio mestiere di manager, di banchiere, di professionista, e nella famiglia, nel tirare sui figli, quindi dalla scuola in poi. Diciamo è diventata la versione novecentesca di quello che i gesuiti furono nei primi secoli, quando erano i consiglieri dei principi e dei regnanti, almeno nei paesi cattolici che non li cacciavano via. E l'Opus Dei è stata questo, nel mondo delle professioni della banca e della finanza, quindi molto discussa anche per gli atteggiamenti a cui induce, le scelte a cui induce i suoi, però dall'altra parte grandissima popolarità e sostegno nel mondo cattolico. Giovanni Paolo II fu costretto da 1300, costretto, ma oltre 1300 vescovi gli chiesero di canonizzare Escrivá de Balaguer. Questi i santi di oggi. Che hanno portato bene a chi nell'amministrativa? Al centrodestra, non so se si sono appellati ai santi, ma insomma, diciamo che oggi la lettura di tutti i giornali è il centrodestra ha vinto, il centrosinistra, il PD ha perso molto, perché in tutte le più grandi città e le città più importanti ha vinto il centrodestra. Città forse simbolo era Genova, dove vince il centrodestra, il candidato del centrodestra, è un risultato a suo modo storico. Storico anche nella mia Sesto San Giovanni, 72 anni di la piccola governo. Grande Stalingrado d'Italia. Esatto, il centrosinistra anche a Sesto San Giovanni vince il centrodestra. Qualcuno dice che anche la vittoria di Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, che è con noi, del progetto Toti, così viene definito. Giovanni Toti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. In effetti il 24 era San Giovanni, se stiamo ai vostri ragionamenti sui santi, quindi potrebbe che abbia portato bene, essendo anche il patrono di Genova. È vero, è vero. Allora, a Genova vince il centrodestra, ma ovviamente non parliamo solo di Genova, vince il modello Toti, si legge oggi sui giornali, che è il modello che prevede un centrodestra unito. Sa cosa ci aveva detto Salvini qualche giorno fa proprio a questi microfoni? Se vinciamo Genova, Gentiloni cade. Adesso non lo so se questa... Guardi, non lo so neanche io, francamente mi sembra una profezia che non saprei dirvi se si avvererà o meno. Di certo non sta facendo gran bene questo governo, quindi prima si va a votare e meglio è, su questo concordo con l'amico Matteo, dopodiché che si vada davvero in tempi brevissimi, questo non lo so dire. Ormai, come dire, la legislatura finisce a febbraio, quindi mi sembra anche... Si può aspettare qualche mese. Mi sembra che anche affannarsi moltissimo, essendoci l'estate di mezzo, non facciamo gli stessi errori di Matteo Renzi. Abbiamo già votato praticamente in piena estate, con le scuole chiuse, con 40 gradi, e i risultati, certo, non sono per questo, dell'affluenza si sono anche visti. Quindi su questo non mi sento di fare profezie. Deciderà Mattarella, insomma, adesso nel Parlamento vediamo se riescono a fare una legge elettorale. È la Che sappia anche cogliere il senso della governabilità che gli elettori hanno dato con queste elezioni. Però proprio questo, siccome l'ha detto lei, allora la fermo solo per far capire meglio agli ascoltatori il suo pensiero su questo. Quando dice questo, cogliendo l'elemento di governabilità, in effetti lo sa meglio di me, per i sindaci alla fine gli elettori possono scegliere il sindaco, i programmi, le coalizioni, ma accadere anche per il governo. Ecco, è tipo quindi per la legge elettorale Toti che direbbe dopo queste amministrative andare verso... Ma io non sono un esperto se il collegio, le preferenze. Io dico tre cose semplici. Uno, che le coalizioni, come abbiamo fatto qua a Genova, Spezia, perché l'altra vittoria storica è Liguria, la Spezia non vorrei dimenticarla, ma come è successo in tutte queste città le coalizioni si devono poter presentare prima con i loro uomini, con i loro programmi, andare dagli elettori e dire: signori, noi vogliamo fare questa cosa qua per i prossimi 5 anni, dateci la fiducia. Serve sicuramente un premio di governabilità, magari non così ampio come quello che era previsto dal Porcellum né come quello previsto dall'Italia, come in caso si raggiunga il 40%, numeri che, stando ai risultati di ieri sera, il centrodestra potrebbe addirittura ambire a conquistare con una lista unica. Ma ciò detto, un premio di maggioranza magari più modesto, magari più proporzionato al numero dei voti preso, perché questo lo chiede la Consulta, ma un premio ci deve essere la riconoscibilità dell'eletto e del, rispetto all'elettore, e quindi o collegi molto corti o collegi uninominali o preferenze. Insomma, io credo non roviniamo questa giornata, ma il successo delle coalizioni di centrodestra ha riportato in campo un giocatore che da un po' di tempo era un po' timido e si era ridotto alla politica italiana, un derby Renzi-Grillo che è durato che è durato quasi 2 anni. Ogni atteggiamento di tipo conservativo o men che cristallino da parte di un Parlamento si è un po' screditato verso l'opinione pubblica, già di per sé perplessa, produce secondo me un effetto di ritorno dell'antipolitica. Siccome il movimento di Grillo a queste elezioni ha segnato per la prima volta una battuta d'arresto anche per i disastri fatti a Roma, fatti a Torino, insomma, la gente comincia a rendersi conto, anche i loro elettori, che una cosa è dar fiducia a uno slogan, una cosa poi avere dei buoni amministratori che sanno amministrare. Io non vorrei che la politica, quella diciamo che ha ambizioni di governo, quella di centrodestra e di centrosinistra, andasse di nuovo ad incastrarsi in una roba che invece crea sfiducia, malcontento nei confronti della popolazione e ridà fiato all'antipolitica. Ecco, però bisogna capire, Toti, quale centrodestra, perché quando si parla di modello Toti si parla di un centrodestra unito. Però su questo Silvio Berlusconi varie volte ha dimostrato di non sentirci molto, tanto che raccontano anche di una cena nei giorni scorsi in cui lei avrebbe in qualche modo sfidato anche Berlusconi a dire: Berlusconi, non ti riconosco più in questo non volere Salvini, non volere il centrodestra unito. No, ma guarda, è detto, come dire, che nei racconti di quelle cene c'è sempre un pizzico di sale di troppo, cosa che non c'è nell'ottima cucina del plebiscito. Ma Berlusconi lo vuole il centrodestra unito, cioè vuole stare con Salvini? Io l'ho sentito questa notte e mi sembrava molto contento dei risultati elettorali e molto anche deciso al fatto che c'è bisogno di mettere in piedi una coalizione e lavorarci, tornare a lavorare alacremente ai programmi, ai moduli e a quant'altro. Ora, non è stata una lunga telefonata programmatica, è stata una telefonata di congratulazioni reciproche e di brevi considerazioni su quel che stava accadendo, però non l'ho trovato ostile. Berlusconi, ma sai, finché si vince, perché uno dovrebbe essere ostile? Ma guardi, è lì il tema vero su cui abbiamo discusso con Berlusconi, che lui immagina una legge proporzionale con un Movimento 5 Stelle che la fa da padrone in questo paese, su percentuali che i sondaggi prima dei ballottaggi dei primi turni di queste amministrative davano addirittura sfiorando il 30. E uno immaginava, immagino io, una legge per minimizzare il danno. Oggi possiamo tornare a una fisiologia destra-sinistra abbastanza netta in questo paese e credo che una legge che abbia un qualche spirito maggioritario e certamente dei meccanismi che tendano a semplificare e unire le coalizioni anziché frantumare ulteriormente il quadro politico, io credo che siano utili. Ma Berlusconi ce l'ha scolpito nel suo DNA di 22 anni, ora al netto di qualche mossa tattica, io non sono convinto che Berlusconi sia non abbandonerà un convinto proporzionalista. Salvini, quindi non abbandonerà Salvini. Ma nessuno deve abbandonare nessuno, bisogna fare un passo in avanti tutti quanti, perché il centrodestra ha avuto grandi successi a questa campagna elettorale, ma è una coalizione che ha 22 anni, che deve tarare i suoi programmi, che deve tarare la sua classe dirigente. C'è bisogno di valorizzarla, la sua classe dirigente, perché troppo spesso su questo siamo stati ondivaghi. Abbiamo premiato i collegi blindati come chi si è conquistato voto su voto il suo territorio con la fiducia dei cittadini. Quindi io credo che il centrodestra si debba tenere intorno a un tavolo. Io l'ho chiamata costituente, voi chiamatela come vi pare a voi, insomma, un momento di riflessione largo. Sediamoci intorno a un tavolo, decidiamo che forma ci vogliamo dare, decidiamo quali sono le persone, i luoghi su cui puntare, decidiamo programmi seri da presentare agli elettori, facciamo quello che si fa in tutta, quando si fa politica. Dice tutto insieme. Senta Totti, nel salutare e ringraziarla, ma lei vuole dire qualcosa sulle banche? Perché qua parliamo anche delle banche, le banche venete, no? Che è la grande, l'altra grande notizia, il salvataggio delle banche venete. Hanno aperto stamattina gli sportelli, lasciamoli lavorare, però io dico che sulle banche questo governo ha fatto un sacco di guai, diciamo, negli ultimi due anni. Ora, con buona pace di tutti, ma tra Monte Paschi, Banca Etruria e le banche venete, la domenica d'urgenza il decreto, penso che si potesse fare onestamente un po' di più e meglio, che il sistema bancario italiano abbia avuto dei problemi, non c'è dubbio che questo governo li abbia risolti al meglio, affrontati con tempestività, a partire dal Monte dei Paschi, dal primo salvataggio, il secondo, tutte le modalità. Francamente credo si potesse far di molto meglio. Molto meglio. Staremo intanto a vedere. Va bene, noi intanto la ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie Giovanni Totti, presidente della regione Liguria. Caro Oscar, e vedremo Berlusconi come elabora questa cosa. Perché certo. il punto a favore della tesi Totti Salvini, per così dire, è innegabile, no? In questo passaggio elettorale. Però è anche vero che Berlusconi ai giornali ha fatto filtrare ieri, merito mio, 48 interviste alla televisione locali, eccetera, eccetera. Quindi vedremo. Ma c'è anche da dire che poi bisogna capire, e prima ce lo faceva notare anche Maurizio Bianconi, quanto hanno preso i partiti. In alcuni casi i partiti hanno preso pochissimo, il 5%, il 6%, cioè nelle amministrative vincono le liste civiche appoggiate dai partiti. In effetti, ma se un partito prende il 3, 4, 5%, poi alla effetti, prova. La tesi che Corriere della Sera lancia oggi in uno dei suoi pezzi interpretativi, che anche tu hai richiamato con le foto di stampa, cioè quello di dire state attenti a considerarlo un equivoco, cari partiti, questo passaggio, sia per il fatto che non ci sono 5 Stelle, sia per il fatto che partiti, persone, sindaci, eccetera, eccetera, no? Esatto, cioè nel senso non è che se un partito prende al 4-5% vuol dire che poi vediamo le elezioni politiche quando non valgono le liste civiche. E soprattutto se volete andare al proporzionale in cui non conta niente il candidato, tra l'altro come sembrano avviati a fare. Comunque insomma è il gioco delle parti, quando si vince le elezioni si dice trionfo, quando del si resto, perde si minimizza. Se vedi nel centro-sinistra è esattamente speculare, cioè Renzi dice... che è abilissimo nel vendere la sua tesi del momento, cioè perso perché mi avete obbligato a fare l'alleanza sinistra che non volevo, pazzesco, no, quando lui è evidente che non la vuole, quindi gli elettori magari dicono beh se non la vuoi allora perché devo premiarla, e a sinistra il PD si dice perso perché naturalmente Renzi non vuole l'unione con la sinistra, eccetera. Quindi capisci che anche la sinistra secondo me è lontana da una riflessione. I commenti post elettorali sono le cose più belle, che nessuno ha mai perso, tutti hanno vinto e... cioè però... se Prodi doveva toccare un punto aperto, evidente, quando ha detto bah, ho l'impressione che ci siano questioni personali nei rapporti tra Renzi, Pisapia, gli altri usciti a sinistra, Bersani e così via, tutti l'hanno negato, però nei commenti di stamattina mi pare un po' confermato. C'è Gaetano che ci chiama da Napoli, buongiorno, il numero è 800240024, buongiorno Gaetano. Buongiorno Oscar, buongiorno a tutti. Eccoci. Volevo fare un paio di domande se è possibile. Prego. Cioè, praticamente se una fabbrica non va bene, deve chiudere perché non riesce ad andare avanti, giusto? Automaticamente se una banca non va, perché deve rimanere aperta? Perché non deve chiudere? Perché siamo noi che dobbiamo pagare questi debiti quando poi delle fabbriche vanno chiuse per causa delle banche che non gli danno i soldi? A questo punto, scusami, a questo punto andiamo avanti che si fa anche la banca di Ponticelli, la banca di Bari, di San Giovanni e tutto, e noi paghiamo sempre. L'abbiamo sempre fatto. Scusami, c'è lo Stato che non è stato eletto dal popolo, fa tutte queste cose. Io posso non pagare le tasse perché sono io il datore di lavoro dello Stato? No, purtroppo non puoi, no. Perché sennò andiamo in galera. Però detto Oscar, questo, una banca è un'azienda un po' diversa, visto che è custodisce, un po' diversa, ma custodisce non così diversa, i soldi. Ma non delle... così diversa. No, certo, non così diversa, ma non nel cioè, modo di gestirla, ma custodisce i soldi. La storia di raccontata dai regolatori italiani, per cui le banche, a differenza di quanto capita in tutto il mondo, non possono fallire e lo Stato deve coprire tutti. È una cosa che non è un controsenso, perché ripeto, primo costa molto di più. Secondo, non è vero che tutela tutti, non è vero che tutelerà gli 11.000 dipendenti, chiuderanno 600 filiali. Non so se è chiaro, non so se è chiaro. Gli azionisti comunque ci perdono tutti, una parte degli obbligazionisti ci perderanno tutti, quindi non è così. 5 miliardi di regalo alla prima banca italiana, che è stata intelligente, fa il suo mestiere, viva Messina, che è il suo capo azienda, e ha detto: sono così in ginocchio questi regolatori di fronte, certo, alle frottole che hanno raccontato, che, è così, è così, che io a questo punto vi dico che scelgo io cosa voglio, non pago, voi mi date miliardi in cambio perché sono buono, mi riconoscete la facoltà di restituire tutto quello che scelgo all'inizio di prendere, mm, e magari poi cambio idea, eccetera eccetera. Anzi, in un retroscena della stampa si racconta che alla fine voleva minimizzare il rischio di dipendenti, oh, da lasciare a casa eccetera, giustamente. Sì, sì, ma lui ha detto: io non si tocca il mio dividendo ai miei azionisti. Questo è diventato il motivo per cui facciamo il decreto legge, ripeto, 37 deroghe alle norme esistenti, quindi non è vero che c'è anche da inneggiare, questo lo capisco. Quelli tifosi contro le regole europee dicono: l'Italia ha stravinto. L'Italia ha stravinto e ha dovuto riscrivere nella sua domenica la liquidazione coatta amministrativa. Ripeto, dicendo che la scelta del soggetto a cui dare gli attivi, cioè il famoso salvataggio, è una scelta che c'è scritto nel decreto, aperta e concorrenziale. Come aperta e concorrenziale? Si sapeva già chi era, si candida a 0 euro, gli diamo i miliardi. Viva Intesa, però allora facciamo una cosa: io mi fido di più di Messina, mettiamo Messina alla Banca d'Italia e al MEF, perché di sicuro è più bravo lui a fare le sue cose. C'è chi ci scrive: meglio il bail-in che questo salvataggio. Poi ognuno visto, certo, chi avrà più di 100.000 euro in queste banche penserà che non è meglio il bail-in. No. L'ascoltatore evidentemente non ha soldi. La soglia di 100.000 euro vale con la regola italiana che applichiamo oggi come per quello europeo, quindi non cambia assolutamente niente per i depositanti, zero cambia. In ogni caso, la differenza è che 17 miliardi sono un multiplo di quello che avevamo pagato. Molti chiedono: ci spiegate perché la Good Bank viene pagata solo un euro? Per alcuni sembra un ossimoro. No, non viene pagata un euro, viene pagata dallo Stato alcuni, sì, miliardi dati a, esatto, Banca Intesa. Viene data un euro, viene dato alla Banca Intesa, e lo Stato garantisce a Banca Intesa 5,2 miliardi, esatto, sicuro, subito. Già. E forse fino a 17. Quindi fino a 17 ci si arriva, no, per quindi coprire la parte del passivo. Non è che, la Good Bank vale un euro. Non un euro, niente, lo mette in Banca Intesa, ma vale 5,2 miliardi vale più meno forse 5,2 miliardi, cioè sì, certo, è una svendita, è un regalo, perché non è vero, perché gli attivi che vengono dati in realtà hanno un valore positivo, ma siccome quel valore positivo chiederebbe a Banca Intesa, per assumerli, di mettere capitale, una parte di capitale a garanzia di questi attivi, e Banca Intesa non lo vuole mettere per evitare l'aumento di capitale, anzi deve non toccare il suo dividendo alle fondazioni, per carità di Dio, allora lo Stato riconosce questo principio di Banca Intesa come se fosse un principio pubblico e non lui, dei privati, e li mette lui. Capite che il centrosinistra fece a pezzi, io ero con lui attaccando Berlusconi che copriva di miliardi i nuovi soci privati di Alitalia, adesso il centrosinistra copre di miliardi Banca Intesa privata. La differenza, come vedete, di principio non c'è, è sempre la stessa cosa, le fanno gli uni, la fanno gli altri, intanto chi pagate? Voi. Andiamo un attimo in pubblicità perché sono tanti ascoltatori che intervengono, poi avremo anche ospite Matteo Ricci per il PD per capire se davvero si minimizza questa sconfitta elettorale amministrativa oppure no. Matteo Ricci tra l'altro è responsabile degli enti locali del Partito Democratico. Aspettate che con noi 24 mattino, attenti a noi due. Vabbè, caro Oscar, qui parlavamo di Raiola e Donnarumma, durante... Io ho chiesto un'interpretazione autentica a quello che è un maestro dell'ermeneutica, no, cioè lui, no, perché io rimango senza parole, non capisco e chiedo tutto questo. No, cioè voglio dire, la fedeltà alla gente e poi sparisco da Instagram dopo le polemiche fatte, no. È stato un hacker, non lo so, cioè, diciamo un po' di confusione mentale per un ragazzo di 18 anni, ricordiamolo sempre. Donnarumma. Allora, ci sono gli ascoltatori, c'è Andrea da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci. Tanto sono onorato di essere in linea con voi, ma io chiamo qui dal territorio sostanzialmente perché sono un paio di cose che non capisco, chiedo aiuto dei luminari come voi. Ma come si fa a eludere la normativa europea sugli aiuti di Stato dando 5 miliardi a Banca Intesa, un'azienda che funziona benissimo? Certo. Per rilevare la parte buona di un'azienda malata come Popolare di Vicenza, che qui sul territorio ve ne posso raccontare di tutti i colori. Io questo aspetto, proprio in termini legali, non lo capisco. Com'è possibile che non avremmo... Andrea, io ti rispondo testualmente. Anche noi, che ci facciamo semplicemente alle regole, credevamo che ci fossero dei problemi, fino a che poi però ieri sera, diamone atto, il decreto del governo è avvenuto con l'ok della Commissione Europea preventivamente, tant'è vero che il comunicato, che è pubblico, si può andare a leggere, dà l'ok in buona sostanza dicendo: oh, il governo italiano, il regolatore italiano ci hanno così scassato le scatole dicendo che volevano applicare le norme italiane e ci sono venuto a dire che non c'è alcuna alternativa che fare così, che a un certo punto, cari italiani, volete fare come vi pare, fate come vi pare. Questo ha un addentellato che significa che le regole europee da questa vicenda escono effettivamente molto ferite a morte. Ma la risposta alla tua domanda è: hanno consentito in ragione del fatto che i regolatori italiani, il governo e Banca Italia dicono non c'è alternativa. Se non regaliamo a Intesa 5 miliardi e la parte buona di questi suoi concorrenti e le diamo una posizione iperdominante in Veneto, quindi comunque chiuderà filiali eccetera. Personale. Anche per rifarsi dei soldi che ha messo in Atlanta. In Atlanta, bravo. E la differenza è che però Intesa li rifà, anche se ne ha messi più delle altre. Le altre banche che le hanno messi, no. Bravissimo. Ecco, questa cosa qui le hanno chiesto le autorità italiane. Aggiungo che nel decreto c'è l'esplicita deroga alle considerazioni antitrust nazionali, la legge 247, per essere chiari. Quindi la risposta tecnica che ti do è questa. Comunque, è tutto voluto cosa... dal governo e da... Cioè, Bazzoli è molto cosa... potente, tradotto, no. Scusami, in Italia. È molto... Resta però... molto potente. Chiedo cosa non va assolutamente bene, perché questa doppia morale che lo Stato italiano... E a questo punto ci metto dentro anche l'Europa che crea la morale a due file, per cui quando devo aiutare gli amici degli amici degli amici degli amici degli amici faccio un decreto al sabato sera, alla domenica notte e li aiuto. No, non va bene, poi non ci si deve non ci si deve come dire stupire di questa disaffezione verso le istituzioni è un diverso. Po', direi, sì, un po'. Scusate, no, ma è chiaro, Andrea Vicenza, scusate, cioè, voglio dire, noi siamo, come dire, un microfono aperto per anche gli sfoghi. Poi Andrea da Vicenza, insomma, magari chiama da Vicenza, è un territorio che questa domanda è, ma non vale allora i limiti antitrust? No, non vale. In ogni caso, insomma, molti ci interrogano e ci parlano della banca e delle banche venete, molti ci chiamano anche per le amministrative. Con noi c'è Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, tra l'altro responsabile degli enti locali del Partito Democratico. Buongiorno Ricci e grazie di essere qui. Buongiorno a tutti. Allora, che dobbiamo dire? Ci si trincera il Partito Democratico dietro al ma non era un'elezione importante, alle politiche vedremo, oppure la vedete come una sconfitta? I giornali parlano di usano questi termini per il Partito Democratico. Lei che dice? Ma secondo me è un po' esagerano, nel senso che ci sono delle sconfitte che ovviamente ci fanno male, ci deludono, in particolar modo penso Genova, penso L'Aquila, penso alcune città del nord come Piacenza. Poi ci sono città che ci sorprendono favorevolmente, penso a Lecce, penso a Taranto, penso a Padova, complessivamente un dato positivo in Veneto e al sud, negativo in Liguria, in Emilia e in altre parti del paese. Complessivamente il dato su 160 comuni sopra i 15.000 abitanti vede assegnate il centro-sinistra 67 comuni, al centro-destra 59 e i 5 Stelle 8. Quindi se c'è uno sconfitto di questa tornata elettorale tripolare sicuramente sono i 5 Stelle. Il centrodestra vince nella maggioranza dei capoluoghi di provincia e quindi nessuno di noi vuole mettere in discussione la crescita che c'è stata a livello amministrativo della coalizione di Berlusconi. Complessivamente la maggioranza dei comuni va al centro-sinistra. In molti casi ci sono ribaltoni, cioè sostanzialmente vengono puniti coloro che erano al governo, a dimostrazione di come governare, come dire, sia faticoso, soprattutto in una fase come questa. Dopodiché sono elezioni amministrative, ovunque ci siamo presentati con coalizioni di centrosinistra, quindi quest'idea che ha perso il PD e magari dove ha vinto il centrosinistra è una stupidaggine, nel senso che ovunque ci siamo presentati uniti, sia dove abbiamo vinto che dove abbiamo perso. Quindi come tutte le elezioni amministrative vanno considerate bene, ovviamente senza sottovalutarle, però senza neanche farle diventare un voto politico, che sappiamo è molto differente, su ma sicuramente ha una chiave di lettura, chiave di lettura che non va sottovalutata. Su questo sì che il voto politico sia un'altra cosa, questo è ovvio, anche perché si diceva prima molte liste civiche sono state premiate, non sono andate tanto i voti ai partiti ma le liste civiche che sono appunto valide nelle amministrative. Senta, l'interpretazione che viene data da alcuni giornali di Renzi che dice: ma colpa di questa alleanza con la sinistra, Per questo abbiamo perso, quando invece insomma è lui che non la vuole, no, questa alleanza con... Ma no, ma io non credo che sia, anzi forse dobbiamo, come dire, parlare un po' meno di formule e stare maggiormente sui contenuti. È evidente che c'è anche un tema che, a forza di parlare di formule, di attaccare continuamente il leader del PD, insomma alla fine c'è il rischio anche di far vincere Berlusconi e Salvini, insomma questo mi pare abbastanza evidente. Di certo noi dobbiamo lavorare per rafforzare il partito, per costruire i temi programmatici sui quali impostare la prossima campagna per le politiche. Abbiamo bisogno di una legge di bilancio che sia una legge che spinga la crescita e l'occupazione, visti i dati anche migliori rispetto alle previsioni che abbiamo sulla crescita del PIL. Quindi insomma questi sono i temi principali sui quali concentrarci. Forse nelle ultime settimane abbiamo parlato un po' troppo di formule politiche piuttosto che di contenuti, o almeno è apparso questo nel dibattito quotidiano. Questo sicuramente non entusiasma gli elettori di centrosinistra ad andare a votare. Altro dato di questo ballottaggio è che insomma, in gran parte dei comuni è calata fortemente l'affluenza, e al ballottaggio vincono coloro che hanno in generale l'elettorato più motivato. Ed è evidente che nelle città più grandi l'elettorato più motivato lo avessero il centrodestra. Però storicamente era sempre vero il contrario, però. Quindi questo anche vorrà dire. Però è anche vero che governa il centrosinistra, il peso del governo nazionale c'era al centrosinistra. Sì, però facciamo anche a lei il quadro complessivo è questo, perché secondo me i numeri, voi che vi occupate di numeri, sì, di economia, bisogna dare. Su 160 comuni, sopra 15.000 abitanti, 67 centro-sinistra, 59 centrodestra, 8 5 stelle, 20 civiche, 2 centro, 2 sinistra. Questo è il quadro complessivo. Questi sono i numeri, sì. Però, diciamo, la stessa domanda anche a lei che abbiamo già fatto a Totti, come riflessione dall'esito del ballottaggio amministrativo per il suo campo e il suo partito. In vista della legge elettorale nazionale, siccome in ogni caso il ballottaggio aveva portato destra e sinistra, e quindi un corno del problema era evitato, sia pur non del tutto, ma insomma, Totti ci ha detto bisogna trarne un messaggio per la legge elettorale nazionale, no a così com'è, perché i cittadini vanno coinvolti nella scelta delle coalizioni e di chi governa. Lei che dice per il PD? Ma noi ci avevamo già provato, nel senso che avevamo una Camera sola con un sistema a doppio turno, quel sistema è stato bocciato. Legge elettorale, non il referendum 4 dicembre, legge elettorale, ecco. No, perché no, io credo che insistere col 4 dicembre non vi porti bene. Ma non è che insistiamo, ci mancherebbe. Il punto è che noi avevamo immaginato un sistema molto simile a quello dei comuni, no? Non è che in comune ci sono due consigli comunali, ce n'è uno solo, la governabilità è data dall'unicità del Consiglio e dal sistema a doppio turno che dà governabilità. Quel modello complessivamente è stato bocciato dagli italiani e poi parzialmente dalla Consulta. Quindi sulla legge elettorale sicuramente noi siamo disponibili, il punto è capire se si rischia di rifare di nuovo Melina come abbiamo fatto per settimane in maniera controproducente, oppure c'è veramente un ampio consenso per cambiare la legge elettorale. Ci sono tre grandi forze in Parlamento, il PD, i 5 Stelle e il centrodestra, anche se il centrodestra è diviso, perché mi pare che già da ieri sera anche nei commenti elettorali ciò che diceva Berlusconi o comunque i componenti di Forza Italia era molto diverso da ciò che diceva la Lega. E se tutte le forze politiche hanno la volontà davvero di fare una buona legge elettorale ci si può riprovare, però io rimango molto scettico perché visti i precedenti mi sembra che ci sia molto tatticismo, ogni volta c'è chi vuole fare una legge elettorale per adattarla un po' alla situazione politica attuale, mentre invece la legge elettorale la si fa per avere un sistema più efficace possibile, sì. Per questo non sono molto fiducioso. No. E in effetti, visti i balletti parlamentari, la fiducia è giusto che sia poca, almeno fino a quello che si è visto adesso. Quindi la legge elettorale è peggio per tutti. Ringraziamo paese. Intanto Matteo Ricci, grazie del Partito Democratico di essere stato qui con noi. Pietro da Barletta, se ha un attimo di pazienza, tanto noi andiamo in onda fino alle 9.30, come sapete, tutto il mese di luglio, fino alle 9.30, dopo il giornale radio delle 9, ripartiamo proprio da Pietro da Barletta, parliamo ancora di amministrative, di banche, se volete anche di altri temi, sai che c'è tutta questa vicenda di questo attore, Domenico Diele, di 1993 che ha ucciso una persona in un incidente d'auto. E non se ne è reso conto per le condizioni era in cui senza era. Patente, patente sospesa, macchina senza assicurazione, sotto effetto di stupefacenti, era al telefonino. Cioè, voglio dire, in una frazione di seconda ha messo insieme tutto il peggio del peggio di quando ci si mette alla guida. Però c'è questo dibattito appunto sulla sua vicenda personale. Dai, state con noi dopo il giornale radio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Mentre molti oggi fanno i conti con i risultati dei ballottaggi nelle città, ben altri calcoli e conteggi si annunciano questa settimana per milioni e milioni di cittadini che sono alle prese non con le schede elettorali ma con i quadri delle dichiarazioni fiscali. Entriamo nella settimana che porta al 30 giugno, il giorno entro il quale vanno chiusi i conti con le tasse del 2016 e vanno versati i primi anticipi per il 2017. Si versa tutto, l'IRPEF, gli addizionali, la cedolare affitti, l'IVI e l'IVAFI, ovvero l'imposta sugli immobili e sulle attività finanziarie all'estero, e poi ovviamente saldo e acconto di IRAP e IRES per le società. Insomma, è il vero tax day che, e questo è molto importante, riguarda anche chi ha scelto di presentare modello 730 o modello redditi da solo tramite il canale web dell'Agenzia delle Entrate. Escluso dai pagamenti del 30 giugno è solo chi sta facendo il modello 730 con il CAF, perché penserà poi a tutto il datore di lavoro. In realtà si può andare anche oltre il termine di venerdì, perché con una maggiorazione dello 0,40% tutti i pagamenti possono slittare al 31 luglio, altra data clou sul calendario fiscale, perché si dovrà pagare la prima o unica rata della rottamazione delle cartelle Equitalia, ovviamente per chi ha scelto di aderire, e si potrà anche presentare la domanda per regolarizzare i capitali illegalmente detenuti all'estero. Insomma, luglio si annuncia un altro mese caldo per le tasse, per la tregua fiscale dovremo aspettare agosto. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ventiquattro mattino, attenti a noi due. E allora, siamo qui alle 9:06 minuti, caro Oscar, in diretta fino alle 9:30. Guarda quanti ascoltatori che ci chiamano. Anna Maria ci chiama da Livorno. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno, buongiorno. Io chiamo per la questione delle banche venete. Sì. Io ho lavorato in Banca Etruria e come dipendente ovviamente avevo anche venduto le obbligazioni subordinate, anche perché il mondo era diverso allora. Allora io vorrei capire perché per i risparmiatori di Banca Etruria il ristoro è stato risibile, perché vuol dire 35.000 euro di reddito e 100.000 euro di portafoglio, poi alla fine se c'erano partite importanti non erano certamente i parametri per avere i rimborsi, mentre Montepaschi, Vicenza, Veneto Banca riescono a ristorare i loro clienti. I miei colleghi si sono presi denunce addirittura per truffa e qui niente, Monte dei Paschi sono tutti bravi, Veneto Banca sono tutti bravi, viene ristorato tutto, insomma credo che la politica qui ci abbia fatto un brutto regalo. Infatti, ma quello che diceva prima Oscar, tutto no, ma dal decreto viene ristorata anche però la parte dei junior retail. Allora la risposta alla sua domanda, che è del tutto legittima, sacrosanta, e io spero che ci sia una marea di impugnative, ma non solo per questo. Per esempio pensi alla banca che due settimane fa ha dovuto, per le tre good bank, rilevarle, sì, con un aumento di capitale. Quella, certo, ha fatto un aumento di capitale. Qua invece ha intesa noi diamo i soldi per scegliere, esatto, lei quello che... Allora, quello che dice lei è vero, cioè a ogni intervento noi abbiamo cambiato e stravolto le regole, esatto, ma non quelle europee, quelle italiane, perché alla fine del 2015 non c'era ancora la BRRD, certo, e adesso questo decreto cambia 37 articoli del codice civile e degli articoli del testo unico bancario. Quindi lei per me ha sacrosanta ragione, i miei colleghi non se ne rendono molto conto sui giornali perché tutti dicono non c'è, no, alternativa, viva Intesa, Intesa è il meglio, copriamola di, esatto, miliardi, ma io dico, ma facciamolo anche, mettiamo Messina a capo della Banca d'Italia, del governo, cioè dove si è mai visto? Intesa scrive letteralmente che o il decreto resta così come l'ha scritto lei o se cambia in Parlamento, lei restituisce tutto indietro. Ma vi rendete conto che non c'è un paese al mondo in cui c'è una cosa simile? Un'altra cosa, un'altra notizia che è uscita appunto ed è evidenziata da poco. Banca Intesa in questa firma evidentemente ha chiesto che il decreto legge venga convertito così come è stato messo a punto dal governo. Dettato da lei. Se verrà cambiato anche di una sola virgola e soprattutto se questo comporterà oneri maggiori per Banca Intesa, a questo punto Banca Intesa può recedere. Gli azionisti di Banca Intesa valgono più di coloro che hanno comportamenti differenziati di banca in banca, valgono più della banca che ha preso le good bank che deve fare un aumento di capitale, valgono più dei contribuenti italiani. E però per i miei colleghi non è vero, per i miei colleghi va bene così. C'è Franco dalla provincia di Roma, buongiorno Franco. Pronto, buongiorno, sono Franco Mondazzi. Bene. È un piacere parlare con voi, sono un vostro assiduo ascoltatore. Grazie. Vi volevo solo informare di una cosa che non sapete. A Pomezia, che è a sud di Roma, c'è un'amministrazione pentastellata. Sì, è certo che lo sappiamo. Che funziona. Evidentemente ci sono dei problemi, ma c'è una differenza notevole. Adesso è successo che ad Ardea, nel nostro comune confinante a sud di Pomezia, hanno vinto al ballottaggio i pentastellati e avevano contro 15 liste civiche, che rappresentavano praticamente la maggioranza, proprio più del 50-70% dei votanti. E la gente ha votato i pentastellati perché probabilmente si è stufata della solita musica, il solito tran tran del compare, del cugino, delle solite cose che si sentono in Italia. Vabbè, e quindi? E quindi niente, penso che comunque abbiano una possibilità di dimostrare qualche cosa. Ho capito, sì, Franco, però hanno vinto ad Ardea, però hanno vinto, no? Però nelle altre grandi città non c'erano i ballottaggi. Nelle grandi città io non penso che siano delle cose completamente diverse. Nei piccoli centri ci si conosce tutti quanti ed è completamente diversa la cosa. Le amicizie, le parentele, le cose sono completamente diverse. Non si possono comparare i piccoli centri con le grandi città. C'entrano tanti giochi politici, non si può. Laddove ci sono, traducendo, i giochi politici dei grandi partiti, i 5 Stelle, però dove ci sono invece le realtà piccoline, dove ci si conosce, dove la gente conosce chi vota, vincono quelli del Movimento 5 Stelle. Però, dato di fatto che erano andati solo in 10 dei ballottaggi più importanti, di quei 10 ne vincono 8, poi non vincono nei capoluoghi maggiori, però vincono in 8, certo, dati come Parma, riflettere. Pizzarotti ha vinto a Parma dopo che Grillo aveva detto goditi i tuoi 15 minuti di celebrità ora che esci dal Movimento 5 Stelle. Però è vero che Pizzi, in 8 ballottaggi su 10, cioè pochissimi, in cui era arrivato 5 Stelle, in 8 su 10 hanno vinto. Comunque con noi ci sono Elisa Calessi di Libero, ben ritrovata Elisa, eccoci. Buongiorno, buongiorno a voi. E Marianna Aprile, buongiorno, ben ritrovata anche Marianna. Buongiorno. Firma di vari blog, siti, settimanale Oggi, insomma una firma che abbiamo anche qui con noi con piacere, già la seconda volta. Allora, Elisa Calessi oggi scrive su Libero che queste amministrative spingono Berlusconi nelle braccia di Renzi o Renzi nelle braccia di Berlusconi, no? Non si capisce perché, ma come? Toti ci ha detto è l'emblema del fatto che finalmente il centrodestra unito vince e tu riproponi invece lo schema del vecchio inciucione. Ma perché hanno lo stesso interesse, cioè a mantenere un sistema proporzionale. Cioè Renzi ha visto, cioè il paradosso di queste elezioni, che Renzi, che era il fautore dei ballottaggi, aveva costruito una legge, l'Italicum, tutta sul ballottaggio eccetera, ha perso tutti i ballottaggi sostanzialmente, il PD di Renzi. E quindi dici, siccome non vince lui, non deve vincere nessuno. È chiaro che lui ha interesse cioè, certo, a non fare una legge maggioritaria con la coalizione, ecco. E nemmeno a questo punto col ballottaggio, quindi il sistema che gli conviene di più è il sistema proporzionale. Ma perché Berlusconi, se la destra... Ma perché Berlusconi perché... se la destra vince? Per il solo fatto che siccome non governa lui e non si può candidare lui, per questo no, sì. Perché è vero che il centrodestra unito vince, ma vince a trazione leghista, come si suol dire, cioè vince un centrodestra unito in cui chi comanda è la Lega, il partito più forte è la Lega. E ritorniamo sempre lì, Berlusconi che non lo può sopportare. Esatto, questo, quindi il problema è che se Berlusconi accettasse questa logica, diciamo che alla fine le cose le deciderebbe Salvini, le liste le farebbe Salvini. Cioè Berlusconi non vuole un centrodestra in cui decide Salvini, ma in questo momento evidentemente è così, perché i numeri dicono questo. Quindi piuttosto che cedere su questo, preferisce andare a proporzionale. Anche se Berlusconi dice ho fatto 40 interviste, vedete, sono 48. Oh, sono 48. Andato di qui di là, le TV locali, insomma, come Dudu, dire, abbiamo vinto Dudu vero, Dudu finto. Dudu finto, ho portato il Dudu finto, questo non l'ha detto a Porta a Porta. Nonostante tutto ciò, gli acquisti del Milan non sottovalutare. Ha capito Elisa che in realtà è Salvini, è salviniana la destra in questo momento, no? Beh, certo, basta guardare anche Genova, insomma, il risultato di Genova è vero che Bucci non è un candidato leghista, però è il modello Totti, così modello detto, Totti. No? Cioè, però Bucci è un moderato, un manager, non è uno che dice usciamo dalle... non lo so, sì e no, per così dire, perché secondo me Bucci è contato molto più di quanto non immagino che conti i partiti a Genova, perché lì c'era un sistema morente, agonico di decenni e decenni e decenni, le ultime volte era già evidente, le ultime due volte che il PD non aveva i propri perché si era ucciso e doveva ricorrere a candidati di prestigio esterni che non c'entravano niente col partito. Quindi può essere che sia come dice Elisa, può essere che no. Magari Berlusconi è così convinto che comunque lui mangia tutti e alla fine tanto vale tornare un po'. No, ma non so. Poi prima modello Toti, prima era con noi Toti, ha detto che ha sentito Berlusconi stanotte. Vabbè, insomma, erano contenti per la vittoria, non è che hanno fatto grandi programmi per il momento. Però insomma Elisa Calessi ci dà questa lettura, l'idea che Berlusconi ha capito a intendersi comunque, sì, che tanto Renzi per Berlusconi. Vincere il centro-destra unito deve diventare attrazione salviniana, e questo un Berlusconi non lo potrà mai accettare. Marianna Aprile, che pensi di questa lettura del centrodestra o anche di centrodestra più centrosinistra? No, penso che sia l'unica lettura possibile una volta sfondate le letture dalle emozioni a caldo. Cioè Berlusconi e Renzi hanno dimostrato già in più occasioni di essere più propensi a farla tra loro la coalizione che con i rispettivi bacini naturali di utenza. Se la natura non bastasse, ci hanno pensato i dati e le parole di Orlando a far capire a Renzi che se vuole fare quello che ha in mente è a Berlusconi che deve guardare. Cioè Orlando si è subito espresso per far capire a Renzi che a modo suo non va più bene, ammesso che gli sia mai stato bene Orlando. L'unico posto in cui il PD ha avuto qualche motivo di gioia è la Puglia, che però sappiamo bene essere il feudo ineludibile di Emiliano, che ha i trascorsi che ha con la guida renziana del PD. Quindi diciamo che se guarda in casa sua, sia in chiave ristretta sia in chiave allargata alle eventuali coalizioni, c'ha solo problemi. Silvio è una garanzia, sempre stata una garanzia per Renzi, e quindi avendo entrambi interessi comuni e spesso coincidenti, sì, e idee coincidenti della guida del paese, sarebbe l'epilogo naturale. L'epilogo naturale. Cioè l'interesse comune di entrambi, avendo uno un problema che non vince a livello nazionale, l'altro che non è elemento trainante della sua alleanza, che però significa, tradotto, cari italiani, non dovete avere un'influenza nella scelta di coalizioni e di chi governa, cioè proporzionale puro. Al paese mio, nei due rispettivi schieramenti, ci sarebbero argomenti per dire il leader però ha un interesse che non è quello generale e ci fa perdere invece che vincere. Questa è la mia impressione. Quando ci hanno provato non gli ha detto molto bene. Ah no, è vero, è vero. Vediamo che ci dice Ferdinando. Però che le elezioni amministrative, sì, intanto le ha perse Renzi, non altro. Ferdinando, buongiorno. Sì, buongiorno, pronto? Sì. Pronto, io mi chiamo Ferdinando, 74 anni, siamo da Roma. Vorrei dire solo una cosa, ma un governo che è delegittimato da tante elezioni di seguito che perde, non può legiferare su leggi importanti come lo Ius Solis. È una legge di interesse nazionale. Ci deve essere un governo che effettivamente ha la legittimazione popolare per poter fare una cosa simile. Guardi che le leggi le fa il Parlamento, però, Ferdinando. Sì, ma il Parlamento è composto da gente che nessuno ha eletto, cioè questo è il problema. E basta. È un'espressione dei partiti. Adesso, la legge la fa il Parlamento. Se poi il Parlamento non c'è più una maggioranza. Come noto, è dall'autunno del 2011 che la condizione chiesta dal nostro ascoltatore non vale. Quindi sono 6 anni di legislazione annullata, secondo il nostro ascoltatore. Comunque, insomma, poi secondo me, piano a dire ha vinto, ha perso. La sinistra, la destra, elezioni amministrative. Certo, dal punto di vista degli amministratori, è inevitabile vedere le grandi città sono state vinte dal centrodestra, ma le politiche, non è che questo necessariamente cambia gli equilibri nazionali, cioè, diciamo che non è, si è ripristinato quell'atmosfera di scambio dei morosi sensi che il referendum del 4 dicembre aveva rotto tra Renzi e il paese, questo si può dire. A meno non lo so, cioè qui Salvini ci aveva detto se vinciamo Genova deve andare via Gentiloni, Toti anche oggi ha detto vabbè, ma insomma ha un po' sminuito questa cosa, non si sa, tanto andare a votare non vuole più nessuno, sei capito questo? Esatto. Non so. Elisa, non vuole più nessuno, prima tutti correre verso il voto, poi no, frenare tutti, non si va più a votare. Tutti, Renzi, ma no, un po' tutti, dai. O no? Sai, sì, un po' è vero, un po' è difficile fare previsioni, perché per esempio c'è anche, nella nottata di ieri c'era anche chi diceva che proprio questo... Ti stanno inseguendo, Elisa, dei cani, non lo so, ci sono dei cani che ti seguono. Dicevo, nella nottata di ieri c'era anche chi diceva che proprio questo risultato potrebbe far ritornare la voglia a Renzi di andare a votare, perché proprio perché il PD è messo così male, cioè meglio votare adesso che non... fra qualche mese, in cui si potrebbe dar tempo a Pisapiegliatti di organizzarsi. Però io continuo a pensare che diciamo vince l'inerzia di quelli che il seggio ce l'hanno e che non sanno se poi torneranno in Parlamento, per, insomma, per far cadere un Parlamento, un governo, e quindi per sciogliere una legislatura bisogna che ci sia un incidente, che ci sia una volontà. Io non la vedo, insomma, mi sembra che alla fine si andrà avanti fino al 2018. Ma figurarsi, ma adesso ci sono. Ma io non capisco una cosa, domanda per entrambe. Ma il problema di Renzi è davvero Pisapia, eccetera, cioè il motivo per cui non portano a votare più i propri dai capoluoghi della Toscana a voto in Emilia, qui sono cadute anche comuni storici che avevano sempre retto a sinistra in Lombardia anche negli anni trionfali di Berlusconi, è dovuto al fattore Pisapia? Non è che sopravvalutano questa cosa, tanto per non parlare della crisi loro, del PD, degli effetti sul PD di questa leadership, che dici? Marianna, che dice? Marianna Aprile. Sono assolutamente d'accordo, nel senso che l'eventuale accordo o disaccordo, il peso dell'eventuale accordo o disaccordo con Pisapia, secondo me è troppo presto per calcolarlo come fondamentale, cioè non è tutto troppo in nuce ancora. Il problema vero di Renzi, ahimè, è il problema con la sua base, cioè lui in questi anni si è, diciamo, progressivamente preso il partito, ma non ha mostrato grande attenzione agli elettori che perdeva per strada prendendosi il partito, e elettori che in larga parte probabilmente gli rimproverano il modo in cui si è preso il partito, e se a questi aggiungiamo gli elettori che gli rimproverano altri tipi di interventi più propriamente, diciamo, di governo, no? Lo stesso salva banche piuttosto che i trascorsi sui problemi di altre banche in passato, o il Jobs Act piuttosto che gli interventi su temi cari all'elettorato storico del PD. Lui questo problema per ora sembra non porselo troppo, e gli fa anche gioco spostare il fuoco della discussione sull'eventuale accordo con Pisapia, perché fa finire fuori fuoco quello che secondo me è la vera questione del disamore dell'elettorato nei confronti del PD, cioè il fatto che non ci si riconoscono più, banalmente, e il fatto che questo dato venga fuori proprio in regioni che erano delle roccaforti, cioè venga fuori a Sesto San Giovanni, cioè, è un messaggio chiarissimo. Non toccare la mia Sesto San Giovanni. Io sono di Sesto San Giovanni. No, effettivamente è uno shock. Non è più poi la Stalingrado d'Italia, perché da anni ormai le grandi fabbriche sono chiuse, si è convertita al terziario. Politicamente è un segnale. È un segnale effettivamente interessante, anche da valutare. C'è Antonio che ci chiama da Bologna. Buongiorno, Antonio. io volevo fare una domanda che riguarda il sistema bancario, sì, e la crisi che c'è stata. E la crisi è stata molto forte, si sono persi molti posti di lavoro, aziende chiuse, imprenditori falliti. Quando un'azienda non va bene, o l'imprenditore la capitalizza o salta. Sistema bancario, sono tutti impuniti, amministratori delegati, presidenti, grandi manager, continuano a prendere una barca di soldi, continuano a fare i fenomeni, ma non c'è mai stato un provvedimento su queste persone che hanno fatto dei danni gravissimi. Insomma, lei, Antonio, dice quello che dicono molti, cioè i vertici, i dirigenti. Antonio, vedremo l'esito dei procedimenti penali che le procure hanno in corso sulle quattro banche risolte, sulle Venete, su Terca, su tante banche. Vedremo. In alcuni casi è evidente che le procure si muovono molto, molto, molto lentamente. Perché la sensazione che hanno i cittadini molto è che lentamente. Intanto bisogna sborsare. Due, io voglio dire anche a chi ci ascolta. Dici, no, ma tu proponi solo che pagassero le obbligazioni. No, guardate, io quello lo propongo come criterio generale, perché io non credo che il contribuente debba ripagare chi ha sottoscritto dei titoli. Se è stato illecitamente raggirato da una banca, allora sì, altrimenti no. Detto questo, in questa vicenda qua, io vi dico che avrei proposto la stessa cosa che proponiamo a fine 2012, 5 anni fa, per il Monte Paschi. La liquidazione coatta amministrativa si fa separando il passivo e tentando poi le cose che non vanno di venderle. Anni e anni ci si mette per recuperare al meglio. Nel caso del Banco di Napoli, dopo 27 anni i crediti che erano stati svalutati rispetto a 100 a nominale a 30, si è recuperato il 90% di quel 30, non il 90% generale, ma ci si è messo 27 anni. Però nella parte buona, la bad bank, cioè i dipendenti, le filiali, i crediti non deteriorati, invece che darla a Intesa, dando anche a Intesa 5 miliardi, io avrei nominato, perdonatemi, due banchieri con nomina pubblica, con quella dotazione e tutti gli attivi buoni della banca, con l'idea di farla andare ancor meglio e poi cederla al miglior offerente entro 6 mesi, un anno. Questa era la maniera per utilizzare il denaro pubblico, come vedete. Io non sto dicendo tutto a scatafascio, sto dicendo che una procedura pubblica col denaro pubblico si fa con una parte di attivo data al pubblico, lì andavano investiti, invece al contrario è una grande collusione. Allora, noi nel salutare e ringraziare Elisa Calessi di Libero e Marianna Aprile del settimanale Oggi, grazie per essere state con noi, chiudiamo con Franco da Milano, che anche lui mi dico vuole intervenire sul tema banche, quindi Franco, è così? Sì, ci sono, buongiorno. Eccoci. No, la domanda che mi ponevo, ho ascoltato un po' tutto, tutte le critiche, io credo che oggi non ci siano elementi per valutare correttamente se è stato un regalo o no, però mi pongo una domanda. In questo ha ragione, ci vorrà il tempo, va bene. Come mai non ha partecipato nessun altro oltre a Banca Intesa? Perché c'è stata una procedura aperta di gara? La mia controdomanda è questa, sa, perché il problema è che se contano le relazioni e se fai avanti il più forte dicendo in più mi dai anche i soldi, nel decreto c'è scritto che è stata una procedura aperta e concorrenziale, ne ha traccia lei? C'è un pezzo di carta? Ah, ecco. Credo che ognuno era libero di presentare delle proposte. No, perché no? Non c'era una procedura di liquidazione. Le procedure, è stato richiesto, le ricordo, siccome erano banche definite solvibili, era una richiesta di 1,2 miliardi a privati per partecipare in quota parte ad un aumento di capitale in cui l'altra quota sarebbe stato lo Stato e restavano in piedi le due Venete. Quella è l'unica richiesta che risulta, non questa. Quindi. In ogni caso, la questione banche, come vedete, è sempre aperta sul tavolo. Noi, Franco, la ringraziamo. Ci fermiamo qui per oggi con Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, Chiara Compagnoni che si è aggregata e sta con noi, caro Oscar, Peter Bescapè in regia. Siamo una squadra fortissima. Siamo una squadra fortissima. Avete un'unica debolezza, Giannino, però no, dura poco, non vi preoccupate. Ma no. Dai, alla prossima, a domani. Ciao.